Radio Onda Rossa. Allora, eccomi qui, sono le ore 22:59, siete sintonizzati su Radio Onda Rossa, la radio libera e ribelle di Roma e provincia. Sta per partire una nuova trasmissione di Altro Verso. Chi vi sta parlando è Nino, aka DJ Misk, che ogni sabato notte naturalmente vi delizia le orecchie con la musica elettronica di Altro Verso. Questa è la puntata numero 684, ormai da oltre 12 anni in diretta qui su Onda Rossa, sempre il sabato dalle ore 23 fino alle 6 della mattina. Vi ricordo, per interagire con la trasmissione c'è il numero di telefono 0649 1750, la mail altroverso@ondarossa.info, il sito ufficiale www.altroverso.net. Saluto Lorenzo Enom, sta ascoltando insomma questa parte di trasmissione, la dedico a lui, dedico anche naturalmente la trasmissione a tutti e tutte voi che vi sintonizzate su Radio Onda Rossa e ci ascoltate anche tramite lo streaming direttamente su altroverso.net oppure su ondarossa.info. Siamo pronti per iniziare questa puntata numero 684, sono le ore 23 proprio in questo istante. Slacciate le cinture ed alzate il volume, questo è Altro Verso. Radio Onda Rossa ti invita all'ascolto di Altro Verso. Dalle 23 alle 6 del mattino. News, classifiche, recensioni, live e DJ set da tutto il mondo. Altro Verso, il meglio della musica elettronica. Oh, 22 ottobre 2011, siamo ormai nel terzo millennio da ben 11 anni, è stato un po' un lapsus. Insomma, vi stavo dicendo, questo è in diretta Altroverso 22 ottobre 2011 con DJ Misk per il sabato notte elettronico di Radio Onda Rossa, sempre con Altroverso, naturalmente la sua musica. Questa è la prima selezione novità della settimana, si tratta di Christian Leffler e la sua The War su Key Records. Come sempre iniziamo in un tono un po' sommesso e poi naturalmente andiamo così gradualmente a salire fino naturalmente ad arrivare alle sonorità un po' più spinte, ma neanche troppo, rimaniamo insomma sempre sui BPM, quelli giusti, quelli che fanno muovere, ma senza andare proprio così fuori di cervello, ma piuttosto usando sempre la mente, ascoltando naturalmente gli ottimi arrangiamenti e i suoni che si insinuano in queste ritmiche un po' ancestrali, molto ancestrali direi, come il caso di Lawrence e la sua The Swan, che esce su etichetta Dire Records, qui in Altroverso. Suoni caldi, atmosfere molto avvolgenti per Lawrence e la sua The Swan su etichetta Dire Records. Era la seconda new release di questa settimana. Adesso ci ascoltiamo Bailar e Chris James su etichetta Artform. Thank you. vero? E questo è Chris James con la sua Bailar su etichetta Form Records. Adesso vi voglio parlare dei martedì targati Altro Verso all'Express Cocktail Bar in zona Trastevere, via del Moro numero 10. Ci trovate dal 25 ottobre, ovvero da martedì prossimo, ogni martedì lì a selezionare la musica elettronica di Altro Verso, un nuovo modo insomma di ascoltare questa musica dal vivo, un modo per conoscerci anche di persona, un modo insomma per trascorrere una bella serata sorseggiando dei cocktail, il tutto naturalmente all'ingresso totalmente gratuito. La zona è Trastevere, insomma proprio vicino Piazza Trilussa, quindi siete tutti e tutte invitati. E per avere maggiori informazioni riguardo alla serata basta andare sul sito altroverso.net oppure andare a cercare l'evento sul social network, insomma quello che conosciamo un po' tutti, quello che utilizziamo tutti. Andiamo avanti adesso con la musica, sono le ore 23.13, sempre in diretta qui su Onda Rossa, sempre chi vi parla è DJ Misk. Adesso arriva Beta Minds con Neon Child su Dam Records. Per Beta Minds su etichetta Dam Records. Adesso apro un attimo una piccola parentesi di Lettere Caffè. Insomma, mercoledì scorso ho suonato proprio lì a Lettere Caffè. Voglio in questo caso ringraziare Giorgio Superman, anche salutare insomma alcuni amici, alcune amiche che ho conosciuto proprio durante quella serata, soprattutto Margherita e le sue due amiche, adesso non ricordo il nome, comunque se mi stanno ascoltando un grande abbraccio. Poi saluto Daniele Momo, anche Max di Expander e altri insomma fratelli e sorelle che sono venuti a trovarmi proprio a Lettere Caffè con le serate di Altroverso, che ritornerà in questo caso il mese prossimo. Adesso andiamo avanti con le selezioni novità. Arriva Pele and Finding con Deep Sea, remixato da Santé su Get Physical. Remixato da Santé su Get Physical Records, una bellissima novità per questa label tedesca, la label di Mandy. Gli artisti originali sono Pell and Findling, l'abbiamo ascoltato come novità qui nella prima ora di Altroverso. Vi ricordo, questa trasmissione andrà avanti fino alle 6 della mattina con moltissima musica da ascoltare. La prima ora, come sempre, dedicata all'ascolto delle selezioni novità. Poi dalle ore 24 fino alle 5 della mattina invece in rotazione le migliori tracce del momento per questa trasmissione. Poi dalle 5 alle 6 la chiusura è dedicata invece alla zona chill out. Vi ricordo che la trasmissione la potete riascoltare in podcast direttamente sul sito www.altroverso.net, sito da cui ascoltare anche la trasmissione, la web radio online 24 ore su 24 con le tracce aggiornatissime, quindi con tutta la musica che o è appena uscita oppure uscirà prossimamente. Insomma, andate su altroverso.net per le info più aggiornate della musica elettronica underground. Adesso arriva Danilo Schneider e la sua Edit Suite su Enac. Su etichetta Hinak Records il nuovo disco di Danilo Schneider, da quale abbiamo ascoltato Edit Suite. Adesso invece arriva Billy D'Alessandro con Crack Time su Sonic Culture. tipico stile di Billy D'Alessandro, tipico stile techno Detroit. Questa si chiama Crack Time, la sua nuova ed ultima produzione per l'etichetta Sonic Culture. Sono le ore 23:28, siete sempre in diretta qui su Radio Onda Rossa, state ascoltando Altro Verso, che si va a fermare per esattamente un minuto e mezzo e poi riprenderemo con la seconda parte novità di Altro Verso. Mi raccomando, non mollate, rimanete sempre qui. Chi vi parla è sempre DJ Misca. Adesso arrivano gli spottini e poi seconda parte di Altro Verso. 9 anni di strike. We are the 99%. Sabato 22 ottobre. Strike, spazio pubblico autogestito, festeggia 9 anni di occupazione. Dalle 19, Toma la Caglie, reinventa il mondo. Dentro e oltre il 15 ottobre. Incontro con il Patio Maravillas di Madrid sulle Acampadas del 15M. Dalle 23, Funk Electro con DJ Max. A seguire, concerto dei Funk Allisto e l'Electrofunk di Andre Graham. 9 anni di strike. Sabato 22 ottobre, allo spazio pubblico autogestito Strike, via Umberto Partini, 21. Tu non sei normale. Tu non sei come noi. Altro Verso. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato. Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista. Special selections. The best of electronic dance music. Beh, che grande rientro qui con la seconda parte di Altro Verso e con questa Jules nella versione remix di Zusammen Klang su etichetta Parker Records. Il disco originale è di Soli. Sempre all'ascolto di Altro Verso, andremo avanti per la prossima mezz'ora, ovvero fino alle ore 24 con le selezioni novità. Abbiamo ancora altri bei sei dischetti da scartabellare, da così farvi ascoltare. Adesso tocca a Stefan Lechner e la sua Calabas su Dimetral Cube. Belle atmosfere deep per Stefan Lechner e la sua Calabas su Dimetral Cube. Adesso vi parlo di martedì prossimo, martedì serata targata Altro Verso all'Express Cocktail Bar in zona Trastevere, esattamente via del Moro numero 10. È un bel localetto piccolo, accogliente, dove insomma si sta bene, si fanno nuove amicizie e in più si può ascoltare dal vivo la musica di Altro Verso, il che insomma è una bella garanzia. E non lo faccio perché diciamo sono il promotore, così sono proprio il produttore di questa trasmissione, ma perché insomma è un po' la verità di faccio ascoltare, vi trasmetto i suoni più all'avanguardia che si muovono nell'underground europeo, ma non solo, ogni tanto insomma andiamo anche dall'altra parte dell'oceano. Insomma, vi stavo dicendo, martedì prossimo Gate Altro Verso all'Express Cocktail Bar, dall'aperitivo fino alle 2 di notte, mi trovate lì, sarà un modo insomma per vedermi di persona, magari venitemi anche a salutare e ritroverò insomma i vari amici che ho conosciuto anche mercoledì scorso a Lettere Caffè. Ricordo perciò martedì prossimo, da martedì 25 ottobre, ogni martedì con la musica di Altro Verso all'Express Cocktail Bar in Via del Molo, zona Trastevere. Maggiori informazioni sul sito www.altroverso.net. Adesso entra Tiger Skin e il suo ultimissimo lavoro su etichetta Two Birds. Il disco si chiama What's Up. Chiama proprio così il nuovo disco di Tiger Skin per la label Two Birds. Adesso entra Gunnar Stiller con il suo Way to Wollongong. L'etichetta è la Upon You. basso rotolante che fa da base per queste linee di synth molto così coinvolgenti. E questo, diciamo, la ricetta del disco, del nuovo lavoro di Gunnar Stiller, si chiama Way to Wollongong ed esce su Upon You Records, un'altra grandissima novità dell'underground internazionale che vi sto facendo ascoltare proprio qui in Altro Verso. Andiamo avanti senza fermarci, sempre in diretta qui su Onda Rossa. Arriva The Late con Slow Mo Girl su Get Physical. Ascoltando Altro Verso, altri suoni, altra musica elettronica, altro che le varie insomma sozzate commerciali che vi fanno ascoltare dalle altre parti. Qui, se volete trovare, ascoltare la qualità, insomma, siete capitati veramente nel posto giusto. La frequenza libera e ribelle di Roma e provincia che il sabato notte vi offre e vi fa ascoltare Altro Verso, grazie naturalmente a chi vi parla, DJ Mischi. Questa era The Late aka Sergio Muñoz con la sua Slow Mo Girl su Get Physical, ancora in versione promozionale, uscirà tra qualche settimana. questa è una delle tante anteprime che insomma vi passiamo qui il sabato sera. Adesso andiamo in versione un po' più deep rispetto alla precedente e ci ascoltiamo Andy Buck con How Does It Feel della versione remix di Fidelis DN Deep su etichetta Society 3.0. Questa versione Fidelis DN Deep Remix per How Does It Feel su etichetta Society 3.0 oppure 3.0, come è più giusto dire. Andiamo avanti ancora con l'ultima novità di questa settimana. Prima vi ricordo naturalmente che Altroverso andrà avanti fino alle 6 della mattina, quindi questa prima ora che si va a concludere tra 5 minuti è stata dedicata all'ascolto delle selezioni novità, poi dalle ore 24 fino alle 5 invece in rotazione ascolteremo tutte le migliori tracce che passano in Altroverso da 2 mesi a questa parte, sì, insomma tutte le migliori tracce di questi ultimi 2 mesi targati Altroverso. Poi dalle 5 alle 6 invece c'è la zona chill out dove ascolteremo i suoni deep, ambient e chill out. Tutto ciò naturalmente è solo qui su Onda Rossa, ma anche sul nostro sito www.altroverso.net, da cui ascoltare la web radio online 24/24, sito da cui anche poter riascoltare il podcast di questa trasmissione, così se vi siete persi qualcosa volete riascoltarla basta andare nella sezione podcast proprio di altroverso.net. Adesso andiamo ad ascoltare Meloman e Javi Bora con Trotamundos, un'altra produzione targata Upon You Records. veramente fantastica questa traccia, si chiama Trota Mundos, prodotta da Meloman e Javi Bora, uscirà su Upon U Records ed è l'ultima traccia di questa prima ora novità di Altro Verso. Naturalmente noi non ci fermiamo, come già vi ho detto ripetutamente, ma andremo avanti fino alle 6 della mattina con la selezione in automatico di Altro Verso. Sono le ore 23:58 in questo istante, sempre in diretta qui su Onda Rossa con DJ Misk, ancora per pochi minuti. Prima, naturalmente vi ricordo, prima di andare via, vi ricordo la serata di martedì prossimo, Gate, Altro Verso, al Express Cocktail Bar, sito in via del Moro numero 10, zona Trastevere, quindi zona centralissima. È un bel piccolo localetto all'ingresso totalmente gratuito, dove mi trovate lì e dove poter ascoltare l'ottima musica elettronica underground di Altro Verso e sorseggiare insomma ottimi cocktail proprio da parte dei ragazzi che insomma lavorano lì e che insomma fanno proprio assaggiare delle ottime cose. Via del Moro numero 10, martedì prossimo con Altro Verso, e sono le ore 23:59 proprio in questo istante, quindi vi vado a presentare il disco della settimana. Si tratta esattamente di questo Meloman e Javi Bora su Upon U Records. Dunque, per questo sabato 22 ottobre di diretta è veramente tutto. Vi rimando al sito www.altroverso.net per rimanere in contatto con noi durante la settimana. Ci vediamo invece dal vivo martedì prossimo. Mi raccomando, non mollate, rimanete sempre qui su Onda Rossa. Adesso qualche minuto di spottino e poi subito con la selezione automatica di Altro Verso. 9 anni di strike. We are the 99%. Sabato 22 ottobre. Strike, spazio pubblico autogestito, festeggia 9 anni di occupazione. Dalle 19, Toma la Caglie, reinventa il mondo. Dentro e oltre il 15 ottobre. Incontro con il Patio Maravillas di Madrid sulle Acampadas del 15M. Dalle 23, Funk Electro con DJ Max. A seguire, concerto dei Funk Callisto e l'Electrofunk di Andre Graham. 9 anni di strike. Sabato 22 ottobre allo spazio pubblico autogestito Strike, via Umberto Partini, 21. Tu non sei normale. Tu non sei come noi. Altro Verso. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa. Vai, vai, vai, vai, vai. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa. Vai. La notte comincia con Altro Verso. Porto dalla noche, música electrónica sin interrupción. This is Altro Verso Radio.